Buon pomeriggio a Camilla Serlupi di WeWorld, benvenuta ai microfoni di Radio Città Fujiko. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie mille dell'invito. Allora Camilla, siamo qua per parlare un po' dell'impegno di WeWorld sul tema ambientale. Che cosa ci puoi raccontare? Beh, assolutamente, WeWorld è innanzitutto una ONG italiana con impegnata in 25 paesi che è sempre più attiva sul tema ambientale, non solo in progetti di emergenza e sviluppo nel sud del mondo, come ad esempio attraverso azioni di adattamento e mitigazione al cambiamento climatico, attraverso il settore WASH che è attivo in molti paesi in cui operiamo, ma anche e soprattutto in molte iniziative di sensibilizzazione ed educazione alla cittadinanza globale in Italia e in Europa. In particolare crediamo che il cambiamento climatico vada affrontato con un approccio multidimensionale. Cerchiamo di portare avanti questo approccio nelle nostre iniziative di sensibilizzazione. In che senso multidimensionale? Nel senso che ne vanno considerate le cause ed effetti. Crediamo che non si possa parlare di cambiamento climatico se non si parla anche di migrazioni, di human mobility, quindi di sistemi agroalimentari, di politiche per lo sviluppo sostenibile. Altra caratteristica della nostra prospettiva, dell'approccio che utilizziamo è quello, e soprattutto nelle iniziative di sensibilizzazione, è quella della prospettiva G-local, ovvero crediamo che il cambiamento climatico sia un problema locale e globale allo stesso tempo e che non possono prescindere le due dimensioni. Nello specifico invece, Camilla, che cos'è il progetto People and Planet? Sì, infatti, per l'appunto People and Planet a Common Destiny è proprio uno dei tre progetti di sensibilizzazione che portiamo avanti in Italia e Europa sul tema del climate change, uno dei tre progetti cofinanziati dalla Commissione Europea sotto il programma DEAR, Development Education and Awareness Raising. L'obiettivo di questo progetto è quello di promuovere la mobilitazione dei giovani, dei cittadini, ma soprattutto dei giovani cittadini, nella lotta per il clima e nella sensibilizzazione sul tema della scarsità d'acqua, con un focus specifico quindi su questo tema. Parallelamente il progetto si rivolge anche alle autorità locali, intendendo rafforzare il ruolo dei decisori politici, soprattutto quelli appunto a livello locale, nell'adozione di politiche per lo sviluppo sostenibile. WeWorld è promotrice di questo progetto in Italia, ma in realtà People and Planet è un'iniziativa più grande, è un'iniziativa appunto europea, che è possibile grazie al lavoro di 17 partner che operano in 9 paesi. Il consorzio di tutto il progetto è composto non solo da organizzazioni della società civile come WeWorld, ma anche e soprattutto da autorità locali. Ovviamente, come ogni anno, organizzate il Terra di Tutti Film Festival, e come all'interno appunto del Terra di Tutti Film Festival si sviluppa il progetto sull'ambiente? Il Terra di Tutti è proprio il contesto, il luogo in cui il progetto People and Planet verrà lanciato. In che modo? Attraverso attività ed azioni di coinvolgimento giovanile. Infatti attraverso il progetto People and Planet ci rivolgiamo innanzitutto ai giovani che vogliamo coinvolgere in diverse attività ed eventi che siano progettati dal basso. Tutti questi eventi andranno a confluire in una campagna di sensibilizzazione paneuropea denominata Water of the Future, che sarà orientata sulle sfide e sui comportamenti legati al cambiamento climatico e alla scarsità d'acqua. Proprio all'interno di questa cornice c'è il festival. Infatti la scorsa estate, a luglio, abbiamo lanciato un bando rivolto ad associazioni giovanili e gruppi informali di giovani, attraverso il quale abbiamo finanziato delle attività performative di sensibilizzazione sui temi del progetto. Abbiamo così affidato la realizzazione di una street action agli attivisti e alle attiviste del gruppo di Extinction Rebellion. Il gruppo, in collaborazione con Zero Netto e Mamado, due associazioni, realizzerà delle performance sul tema del consumo e dello spreco d'acqua, quindi sugli stessi temi della campagna del progetto. Questa street action, quindi questa performance audiovisiva, è denominata Impronte, in quanto affronterà il complesso tema del consumo invisibile dell'acqua che si cela dietro molti prodotti di uso quotidiano. Sono diverse le date previste, tre in particolare. C'è anche un evento Facebook organizzato da appunto Extinction Rebellion, dove è possibile trovare maggiori informazioni. In particolare le date che segnalo sono quelle del 7, dell'8 e del 9 ottobre in tre location diverse della città: in zona universitaria, in piazza Puntoni, ma in piazza Maggiore il giorno venerdì 8 e infine il 9 al cinema Lumière. Sul venerdì segnalo in particolare una particolarità della performance, in quanto l'alimentazione dell'audio e del video della performance stessa sarà possibile non grazie all'elettricità, ma grazie a un sistema completamente green, ovvero un impianto di biciclette che prevede una pedalata collettiva da parte innanzitutto degli attivisti, ma anche dei passanti, insomma dei cittadini che si troveranno in piazza. Quindi è possibile partecipare anche attivamente a queste performance che si svilupperanno nelle vie della città? Esatto, l'obiettivo delle performance è esattamente questo, quello di coinvolgere i cittadini e far sentire al più gran numero di appunto cittadini e cittadine quello che è il tema affrontato dalla performance. E questo approccio è comune sia a noi di WeWorld che a gli attivisti e le attiviste di Extinction Rebellion. Grazie Camilla, e che dire, ci vediamo tutti e tutte al Terra di Tutti Film Festival. Assolutamente, grazie mille a voi.